Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Zanzara, popolo della radio, siamo qui. L'uomo che ieri avete sentito tuonare contro Renzi dicendo basta cazzate, basta Leopolda, un uomo visibilmente agitato ieri in piazza per aver visto le manganellate della polizia nei confronti di alcuni manifestanti della FIOM, in particolare alcuni manifestanti delle acciaierie di Terni. Ebbene, oggi, dopo aver dato del cazzaro sostanzialmente al Presidente del Consiglio, ha fatto una conferenza stampa, ha incontrato lo stesso Presidente del Consiglio, credo non gli abbia dato del cazzaro. Questa è l'Italia però, cioè il giorno prima dai del cazzaro al Presidente del Consiglio, il giorno dopo vai a trattare per le acciaierie di Terni. Si tratta di Landini, il leader della FIOM. Allora, diciamo la verità, se ieri Landini non fosse stato in piazza con gli uomini della FIOM, e tutto questo casino di ieri, che è una cosa molto limitata perché, ripeto, si tratta di qualche manganellata, per carità, nessuno deve essere manganellato, siamo tutti d'accordo, vero David? Se non ci fosse stato Landini, questo casino non sarebbe successo. Cioè, la presenza di Landini ha reso tutto politicamente più sensibile. Ha fatto sì che non avvenisse di peggio Landini. Ma questo non lo so. Perché ha trattato con la polizia, a un certo punto. Comunque, ha fermato probabilmente i suoi esasperati. Oggi dice Landini falso quello che dice la questura, è intervenuto anche Alfano, come sapete. Però partiamo proprio da Alfano, da una frase che ha detto Alfano, certamente un po' ambigua per carità, che è quella in cui dice: beh, c'era preoccupazione e una voce che i manifestanti potessero andare in stazione, alla stazione Termini. Sentiamo. Peraltro è subentrata anche la preoccupazione che alcuni manifestanti volessero in realtà dirigersi verso la vicina stazione Termini, atteso che tale voce era stata colta dai funzionari di polizia in servizio a Piazza Indipendenza. Vabbè, poi ha detto le solite cose: ieri è un giorno brutto per tutti, libertà di manifestazione è sacro, il governo non ha mai detto di alzare i manganelli. Io resto dell'idea che è una vicenda di piazza, di una normale manifestazione dove gli animi possono essere esasperati, dove è scappato qualche manganellata, niente di particolarmente grave, nessuno ci ha rimesso nulla, per fortuna, esasperata dalla politica, e qualcuno continua ad esasperare questa roba qui. Sentite il signor Airaudo, che è deputato di SEL, ex sindacalista, il quale dice che i poliziotti hanno ricevuto un ordine, ma nelle piazze non è che uno riceve un ordine di andare a manganellare, nelle piazze spesso le cose avvengono in maniera assolutamente spontanea, non è che per forza ci deve essere un ordine superiore di manganellare gli operai. A chi può venire in mente di manganellare gli operai? Noi però vogliamo sapere chi ha dato gli ordini. L'abbiamo chiesto in Parlamento, l'abbiamo chiesto oggi alla Guidi, perché non ce la si può prendere con i lavoratori poliziotti che erano lì. Cioè hanno questo ricevuto un ordine, sono stati sbagliati gli ordini. La Camusso, la leader della CGIL, dice che Renzi deve abbassare i manganelli. Cioè voi, È un clima assurdo, cioè si attribuisce a Renzi, qualcuno ancora attribuisce a Renzi, lo ha fatto ieri Cremaschi da noi, lo fa ancora la Camusso questa mattina alla Rai, cioè ha detto che è Re, cioè, quando uno dice abbassi Manganelli attribuisce a Renzi la responsabilità di un qualcosa che è avvenuto in piazza, che fa parte di un normale, di una normalissima dinamica di piazza in cui c'è gente che vuole sfondare un cordone, c'è gente che vuole spostarsi, c'è la polizia che può avere sbagliato certamente, ma non è successo niente di grave. Niente di grave. La cosa grave è che queste aziende lasciano l'Italia come la Thyssen perché da noi è impossibile investire. Queste sono le vere manganellate. Le manganellate vengono date allo Stato, dallo Stato, no, verso quello, le aziende, perché... verso le aziende. Poi certamente qualche manganellata in piazza può succedere. Io dico può succedere. Per fortuna non è successo nulla, ma comunque sentiamo come si chiama la Camusso. Io direi che il Presidente del Consiglio dovrebbe provare ad abbassare i manganelli dell'ordine pubblico, 500 lavoratori di uno stabilimento in grande difficoltà che da molti mesi lottano per il posto di lavoro. Allora, ogni giorno credo che ci siano intorno ai 570 lavoratori che perdono il lavoro, Ogni giorno 570 lavoratori perdono il lavoro e nessuno fa un cazzo e nessuno fa niente. Dunque quei 500 della Thyssen sono molto più privilegiati, sono decisamente più privilegiati perché ma hanno come privilegiati? Ma certo, no, rispetto hanno a quelli hanno preso anche le botte sulla testa. Vabbè, ma questa qua è una banalità, lascia perdere, segui il ragionamento, segui un attimo il ragionamento, non ti fare ma no, sono... no. Allora, rispetto a quelli ogni che ogni giorno in tutta Italia rispetto dal nord al sud. Rispetto a quelli che perdono il lavoro e non hanno landini, non hanno i tavoli alla Presidenza del Consiglio, rispetto alle partite IVA, rispetto agli altri, quelli là, io li chiamo rispetto ma a quelli. Rispetto a quelli, ho detto, rispetto a quelli. Ma non c'è rispetto, non c'è una guerra tra, non c'è rispetto. Vabbè, allora, non è, allora non hai capito. Non c'è un allora non hai capito. Paragone di fronte a 500 persone che perdono il posto perché la Thyssen non li vuole. E un'altra perché la Thyssen no, perché la Thyssen non vuole più lavorare ma non in Italia. La storia non è così, c'era... no, non è vero. Aspetta, c'è anche Liguori, aspetta un attimo, fermo, c'è tempo, c'è tempo, fermo. C'era un'altra azienda sì, vabbè, presi. Vabbè, d'accordo, questa e è un'altra. L'Europa ha detto di no. Vabbè, no, una storia di questi... storia lunga. Allora, Liguori, Paolino Liguori si ricorda di essere stato quello che è stato nell'estrema sinistra, eccetera, eccetera. Dice che occupare le stazioni fa parte della democrazia. Senti Paolino Liguori, ma dai, Liguori, su però. Noi abbiamo anche tollerato occupazioni di stazioni da parte di operai di questo genere, fa parte della democrazia, quindi fa parte un po' del terreno. Sì, anche perché non è che andavano a occupare con le bombe, ammesso pure, loro fosse, negano pure oltretutto, fosse, ma dopodiché si dirigevano. I passeggeri dei treni sanno ben distinguere se il treno è bloccato da una manifestazione di carattere ideologico o da operai delle acciaierie che hanno bisogno del lavoro. Beh, questa distinzione di Liguori è eccezionale. I passeggeri dei treni distinguono tra i lavoratori che della Thyssen e quelli ideologici. No, ma c'è una differenza tra il protestare Liguori. Ha ragione Liguori. Vabbè, ragazzi, perché tu non hai mai perso il lavoro. Va bene. Abbiamo con noi Giampiero Mughini. Buonasera, Giampiero, ciao. Bentrovati. Come stai? Come tutti gli italiani, cerco di campare. Eh beh, questo per fortuna ce la facciamo, come dire, no? Sì, ce la facciamo, certo. Naturalmente nel cercare di campare cerco di non rompere le balle a nessuno. Beh, questo speriamo. Senti, ma come hai visto gli accadimenti di ieri? Perché poi c'è stata una spiegazione da parte di Alfano oggi in Parlamento, la polizia pensava che dovessero dirigersi verso Termini, ma qualcuno dà la colpa alla... molti sindacalisti danno la colpa alla... addirittura qualcuno ha detto oggi anche esponenti del Partito Democratico dicono siccome Serra, Davide Serra, il finanziere Serra, ha parlato di limitare il diritto di sciopero alla Leopolda, poi sono arrivati i manganelli. Beh, questa è una stupidaggine. Giampiero? Beh, sono naturalmente stupidaggini, assolutamente l'Everest delle stupidaggini. Allora, naturalmente io non ho sentito Alfano perché oggi ero dal dentista, quindi continuo a non conoscere esattamente la dinamica degli avvenimenti, che poi è la cosa più importante. Cioè c'è stato un tentativo di sfondamento, era un tentativo ostinato e accanito o non c'è stato? Se non ci fosse stato il tentativo di sfondamento, naturalmente i manganelli sono assolutamente sbagliatissimi, sì. Questo non c'è dubbio. Se ci fosse stato il tentativo di sfondamento, i manganelli, quelli sì, fanno parte della democrazia, perché a differenza di quello che ha detto il mio amico Paolo Liguori, che probabilmente una volta ogni tanto vuole reindossare la casacca di sinistra che era stata della nostra giovinezza, io ricordo un episodio molto preciso, ero alla stazione di Milano, sì. Tornavo da un lavoro fatto a Milano, da un lavoro faticoso su cui avrei pagato il 53%, il 54% di tasse, dovevo prendere un treno per Roma, ripeto, ero molto stanco, arrivano dei militanti, mi pare della FIOM, ricordo le bandiere rosse, non mi pare che fosse la FIOM, e hanno bloccato la stazione per 2 ore. Confesso che non ne sono stato contento per niente, ripeto, io avevo fatto un lavoro a Milano, sì. Ci avevo pagato il 53-54%, perché devi rendermi la vita impossibile? Che c'entro io con il tuo problema? Se ciascuno di noi invadesse le stazioni per i suoi problemi innumerevoli, saremmo alla giungla, ma noi siamo già alla giungla. Senti un attimo, ma quando io dico che questi lavoratori rispetto agli altri che perdono il lavoro ogni giorno, e che non sono protetti da nessuno, sì, né da casa, sì, integrazione, né da nulla, sono in realtà privilegiati? Ma sai, Giuseppe, fare questa gerarchia, sono più visibili, accanto, esatto, a casa mia chiude un negozio un giorno sì e un giorno no, un negozio che chiude significa 3, 4, 5, 10, certo, posti di lavoro. Allora, dire che sono privilegiati forse non è l'aggettivo più felice, c'è una gerarchia di visibilità, naturalmente gli iscritti alla CGIL, i militanti della CGIL, i militanti politicizzati eccetera hanno una visibilità particolare, ma il punto qual è questo? Ancora di più che la visibilità, ma poi tu l'hai detto, non è che a forza di visibilità i problemi della Thyssen, della Thyssen, la tragedia dell'acciaio, del produrre acciaio in Italia, che dipende da mille ragioni, perché questo è il punto decisivo. La ricetta per far funzionare la Thyssen a costi accettabili non ce l'ha nessuno, meno che mai ce l'ha la Camusso. Ecco, a proposito di Camusso, ecco, ma quando parla di manganelli, Renzi abbassi i manganelli, cioè, ma tu tra la Camusso e Renzi di chi ti fidi di più? Diciamo la verità. Ma Renzi non è stato messo lì dai poteri forti, come con espressione da analfabeta ha detto l'attuale segretario, sì, della CGIL. Renzi ha trionfato alla seconda volta alle primarie, e poi ha avuto una spettacolare legittimazione per il fatto che una parte dell'elettorato di centro lo ha votato e gli ha dato il 41%. Ma questi qua sono vecchi rottami, come dice oggi un ex consigliere di D'Alema, Velardi, eccetera, cioè, tutti questi oppositori di Renzi sono gente del preistorico, o no? Ma anche lì non è che si deve usare un'espressione, perché se facciamo a gara a usare espressioni offensive come ha fatto, ma insomma, la se Picerno, tu immagini Camus, vabbè, la Picerno, no, ha detto una cosa che però ha dei riscontri, non è che sia così campata in aria. Ma io penso che in un caso del genere sia innanzitutto offensivo. Tu stai parlando con Camus, è inutile, lascia stare le tessere false che ovviamente ci sono nel sindacato, ma non è quello il momento per tirarle fuori. Nella discussione, Giuseppe, se ognuno di noi ci mette il massimo di veleno e di micce accese, espressione giustamente usata da Bersani, noi continuiamo nella giungla. Oggi però ci sono altre notizie interessanti, eh? La prima è quella clamorosa, anche se è il segreto di Pulcinella, cioè il capo, grande capo dell'Apple, Tim Cook, che fa coming out. Qualcuno già parla di iGay, qualcuno parla di invece di iPhone o invece di di Apple e tutti i prodotti Apple, che dice: sono fiero di essere gay e considero la mia omosessualità tra i più grandi doni che Dio mi ha dato. Ora, forse mischiare Dio con l'omosessualità, questa di Tim Cook, sembra una frase un po' eccessiva. Uno deve dire: faccio coming out, sono gay, punto e basta. Comunque, vabbè, chi se ne frega. L'altra cosa è che l'ex ministro Kyenge sostiene in un'intervista a Affari Italiani che la Lega va messa fuori legge, che è un partito razzista, e che ci dovrebbero essere le leggi che la mettono in disparte, cioè la cancellano dallo scenario politico, che è una follia inenarrabile, ma ne parleremo dopo. Voglio chiedere una cosa a Giampiero Mughini, che è questa: da tifoso della Juventus, le frasi che ha pronunciato l'altro giorno una grande tifosa juventina, amica della famiglia Agnelli, come Evelina Cristillen, non so mai come diavolo si pronuncia questo cognome, ex organizzatrice delle Olimpiadi di Torino 2006, in cui ha preso sonoramente per il culo la famiglia Moratti, i dentoni di Moratti, Bedi Moratti che esulta anche quando l'Inter vince con le squadre minori, e soprattutto ha chiamato Ciccio Bello, il grassone indonesiano, cose di questo tipo, il presidente dell'Inter, Toir. Ti fanno orrore, Giampiero, queste cose? Ma onestamente sul web è più facile trovare espressioni di questo tipo da ultra, che non versi paroliberi, citazioni da Apollinaire, esaltazioni di Dino Campana. Sul web questo linguaggio è, diciamo, corrente. Onestamente c'è anzi molto di peggio. In fondo la Cristillin parlava in modo ironico. Io naturalmente sono per il massimo rispetto della famiglia Moratti, dell'imprenditore indonesiano, degli scudetti che l'Inter ha vinto sul campo, cioè tanti tranne uno. Sono per il massimo. No, d'accordo, però non è satira sportiva questa qua. Lei ha detto, l'ha derubricata a satira sportiva. Era un blog sull'Huffington Post, che è un giornale anche, diciamo, di un certo prestigio, sì, eccetera. Hai ragione, era un blog sull'Huffington. Ma io non ripeto, non, come tu sai, non ho mai usato questo linguaggio in vita mia, quindi figurati. Cioè, è anche presidente di un'associazione per la contro l'anoressia, cioè no, poi dà del ciccione al presidente dell'Inter, una cosa assurda. Assolutamente espressioni sgraziate, assolutamente, quindi se vuoi te lo firmo dinanzi a un notaio. No, ma invece mi hai chiesto orrore di, con quello che c'è in questo momento nel mondo, no, vabbè, forse non mi viene proprio. Però assolutamente. Senti, il presidente della Sampdoria viene accusato di razzismo per quella frase rivolta a... Ma quella è una stupidaggine. Cioè, ha dato del filippino. Il presidente della Sampdoria gli va fatto un monumento dai mass media, perché permette a qualche giornalista di guadagnarsi il pane facendo un titolo sul è vero. Se non ci fosse Ferrero bisognerebbe inventarlo. Se non ci fosse Ferrero bisognerebbe inventarlo, dai. No, ma è un personaggio incredibile. È una garanzia. No, ma è una garanzia assoluta. Oggi era con Barbara D'Urso a Mediaset, ha fatto un video straordinario, dopo manderemo il contenuto, in cui a un certo punto ha parlato appunto, ma no, ha parlato meglio, ha parlato peggio la Cristel invece della Cristel. Dice, è un personaggio straordinario. Cioè... Ma assolutamente. Poi sai, io dovessi dirti, veramente io di Ferrero non mi preoccupo minimamente, anzi secondo me è anche molto simpatico, ma con quello che c'è in giro oggi, ma che c'è in giro nelle sedi alte, importanti, parlamentari grillini che dicono che insomma, vabbè, dai, ma Grillo sulla mafia, Grillo sulla mafia. Sulla mafia, non lo volevo dire perché sennò sembra che il dente batte lì dove la lingua mi ricordo se la lingua che batte o il dente che batte. No, ma c'è un'altra cosa che riguarda Farinetti che voglio dire. Farinetti ha detto, ho pensato di lasciare l'Italia per investire all'estero, dove c'è gente che si lamenta di meno. Dà lavoro a 1700 persone, hanno scioperato in 3, dice lui, perché 2 non sono stati confermati e magari anche giustamente dal loro punto di vista hanno ritenuto fosse stata un'ingiustizia. Invece mi si vuole far passare per un hitleriano. Cioè, ma ti rendi conto quello che è? Si può dire tutto il male possibile di Farinetti. Ma guarda, te la dico netta, siccome io sono un cliente della sua impresa, sua impresa. L'altro giorno, perché io chiedo sempre a tutti, mi piace chiedere, eccetera, dico, senta, parlando con dei ragazzi molto simpatici che lavoravano lì, ma è vero che voi siete trattati male in media? No, dice, non è vero affatto, questo me l'ha detto un ragazzo che lavorava lì, Dice non è vero affatto, se uno fa mezzo tempo viene pagato meno di uno che fa tempo. La gabbia l'ha inseguito come un no. pazzo, prendendolo come una specie di mostro assoluto. Il mio caro amico, vecchio collega Paragone è uno che ama infilzare gli esseri umani. Infilzare gli esseri umani. Ti abbraccio, a presto, ciao Giampiero, ciao. Ciao caro. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. La faccio più, non mi supporto, è un programma brutto, è brutto. Sei ancora a casa, Emo? Volanti imprese del presidente della Sampdoria Ferrero, alle prese questa volta con Barbara D'Urso. Sentite, ormai ha rotto qualsiasi argine, la consacrazione definitiva, selfie e video con Barbara D'Urso. Io rincontro Massimo dopo 20 anni, perché lo conosco come produttore e anche ottimo produttore cinematografico e di fiction. Lo ritrovo. Ottima la pasta asciutta. Sì, no. Cioè, primo ti hanno deferito, che vuol dire? No, perché ho detto una frase ultimamente, se leggi i giornali. E lo sport lo sai che io non lo seguo. Ho letto una frase. Ah, quella del filippino. E adesso vabbè, ma non volevi offendere. No, ma figurati, ma che me la frega a me. Mi offende. L'ha offeso l'altra signora, insomma, ha chiamato. No, non lo Christian. So, dimmi una cosa, ti sei comprato una squadra. Ho comprato la Sampdoria. Avete sentito come ci marcia? Poi dice l'ha offeso l'altra, la Christel. Non sapeva neanche pronunciare il nome. Ma non sapeva nemmeno che era indonesiano, ha detto il presidente dell'Inter. Cioè, è il numero uno totale, ma che me frega a me. Ma che c'è dell'altro poi ancora? Ancora Ferrero. Ma giallo rosso che vuol dire? Giallo rosso non è la Roma. Sì. E che c'entra lui? Si è comprato un'altra squadra? Io, ma sempre giallo rosso, vero? No, io sono nato in Sampdoria. Ma è un mito, è un personaggio davvero, no? È un personaggio. Ma sì. Ciao. Dove vai? Il ristorante sta qua. Cantina. La D'Urso, siete testimoni, mi sta a portare in cantina. Siete testimoni, eh? Oh, controllate dove porta, che questo già era agguato, eh. Da Zanzara. Tipi da Zanzara. Da un secondo con Alessio della provincia di Pistoia, dai. Molto stupida. Sì. Pronto? Sì, dimmi Alessio, dimmi. Ciao. Buonasera. Ti volevo dire questa volta sta cacato fuori dal vaso. Ho cacato fuori dal vaso. Sì, vabbè, sì, ma può darsi. Sei vergognoso. Ho espresso la mia idea, capito Alessio? Sì, la sua idea fa vergogna alla razza umana. Fa vergogna alla razza umana. Se Parenzo si accoda a questa roba qui, capito? Dicendo che fa vergogna alla razza umana. Questa persona intelligente. Sì. E tu te dovresti rendere conto da solo e tu dici delle stronzate? Vai, prosegui, vai, facendo parlare, hai finito? Dimmi se qualcosa, chiedi scusa. Ah, vuoi lo scontro, chiedo scusa a chi? A chi devo chiedere scusa? A questi che hanno preso le manganellate, hanno preso. Ma mi dispiace che hanno preso le manganellate, è normale che mi dispiace che hanno preso le manganellate, non è che esulto perché uno prende le manganellate. Come una ciuga. No, ti sbagli, dai, Alessio, ti sbagli. No. Guarda, a me poliziotti quando picchiano uno global allo stadio, io sono stato diffuso. Ah, è diverso, il no global allo stadio è diverso. Certo è diverso, quelli sono minchioni, questa leggente deve portare cattina a casa per mangiare. Ma cosa cazzo c'entra? Ma non c'entra una sega, la volete finire con questa retorica? non fa un cazzo altro, quello sa fare. Ma c'è migliaia di persone che perdono il lavoro ogni giorno. Senti, ci sono state 4 manganellate in piazza. Viene impegnato il ministro degli interni, il capo dei sindacati che invoca Renzi. Ma cosa c'entra il diritto di lavoro con la manifestazione e col forzare il blocco per andare a occupare la stazione Termini? Ma ragazzi, ma state scherzando o no? Ma che cosa devono fare? Ma vengono a casa tua, che cosa fai? Se vengono a casa tua, vengono a casa mia, io do da mangiare a questa gente. Ah, gli dai da mangiare? Ma io, se qualcuno viene a casa mia a rompere i coglioni, chiamo la polizia. Ma di che stai parlando? Vengono a rompere coglioni, vengono a reclamare un posto di lavoro. Ma dove reclami? Per strada il posto di lavoro? Dove lo reclami il posto di lavoro? Sì, vai per strada e reclami il posto di lavoro. C'è una. Devi andare a reclamare il posto. Senti, comunque va. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi incontra i sindacati a Palazzo Chigi, verifiche atti conseguenti sugli scontri ma non le strumentalizzazioni. Camusso il premier a bassi manganelli. Spiragli nella trattativa per le acciaierie di Terni, il ministro Guidi dimezzato il numero degli esuberi, la FIOM sciopero generale a novembre. Alfano alle Camere, solidarietà, operai e agenti feriti, ieri brutto giorno per tutti, da SEL e 5 Stelle firme per la sfiducia individuale al ministro. Napolitano fiducioso, supereremo le difficoltà per le riforme, serve più coesione nazionale, primo giro al Colle per la nomina del ministro degli esteri. De Magistris torna sindaco di Napoli, il TAR ha accolto il suo ricorso dopo la condanna per il caso Why Not, gli atti inviati alla Corte Costituzionale. Tremonti sotto accusa per corruzione per una consulenza Finmeccanica di oltre 2 milioni, perquisito il suo studio, l'ex ministro mai chiesto nulla. A Kobane arrivo quasi trionfale dei combattenti curdi e l'ultima speranza per fermare l'avanzata dell'ISIS, nuove prove delle atrocità del califfato. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah. Andiamo a Bologna. Sandra, buonasera. Ciao, sono qui. Ciao, ascolta, ciao. Cruciani, no, io ascolta, faccio la sindacalista. Sì. Ho 49 hai anni. Hai fatto o fai? Piazze... Scusami, hai fatto? No, faccio la sindacalista. Fai la sindacalista, sì. Frequento le piazze, purtroppo negli ultimi tempi, abbastanza spesso. Sì. Quindi, francamente, io credo che tu non abbia ragione a dire che, come dire, sono prese 3 manganellate, cos'è? Roba. Beh, quelle dire. Erano però, perché nessuno parla, sì. Poi c'è anche qualche ferito tra i poliziotti, qualcuno nega, ma ci sono feriti tra i poliziotti. Ma ascolta, secondo te è normale che uno va in piazza a manifestare un dissenso e sì. Prende magari anche una sberla? Io penso di no. No, non è normale a meno che nelle dinamiche di una manifestazione non succeda qualcosa, non succeda qualcosa. Non era successo niente. E allora qual è la tua interpretazione, Parenzo? Che sono stati, c'è stato un ordine dall'alto per picchiare guarda, gli operai? No, no, guarda, volevo. No, l'ordine dall'alto, non credo. Nelle dinamiche di piazza, spesso alle volte chi guida la piazza sbaglia, commette degli errori. È quello che dico io. Come hanno fatto i poliziotti in quel caso lì, perché ti dovresti sì. Trovare tu hai già fatto l'inchiesta del ministero, questa è l'idea che mi sono fatto io, sentendo chi sì. Era lì, dopodiché sì. Non mi permetterei mai di dire 4 sì. Manganellini sulla testa. Vabbè, quello l'ho detto io, infatti in piazza, l'hai già appunto, detto questo molto, l'hai già detto molto volgare, non mi permetterei vabbè mai volgare di dire... Vabbè, tu puoi definirlo no, come vuoi, tanto hai già detto. Anche violento, è violento, benissimo, è violento. Va bene, hai qualcosa da dire oltre? Va bene. Io ho qualcosa da dire perché sono persone che sono andate in piazza. Benissimo. Molto scoperto, lavoratori, operai sì. Che hanno perso il posto di lavoro. Sì. E tu dici, ma chi se ne frega, perché vabbè, ma, si perde il lavoro poco male. Non ho detto questo, Sandra. Sì, l'hai detto. Sandra. Non è chi se ne frega invece. Sì, sì, sì, Sandra. Io tanto. Spero di aver capito male. Hai già detto se ieri. Se hai capito male, se ho capito male, guarda, sì. Sono contenta. Ma su che cosa? Scusa, lei ha capito male? Non ho capito, Sandra. No, non lo so. Se ho capito male questo fatto che tu hai detto che sono, come dire, cosa vuoi che ha sia? Detto così? Hanno preso... No, ho detto ci sono state 4 manganellate, quello che è successo, ci sono state 4 manganellate, certo. Sì. non è successo niente di particolare, non è successo niente di particolarmente grave. Non ho detto che non è successo niente di grave, ho detto di particolarmente grave. No, ma le cose gravi sono altre, i tumulti di piazza sono altri rispetto a quattro manganellate, cioè sono altri tumulti di piazza. Quattro manganellate, quattro manganellate, alla fine quattro manganellate con qualche ferito. Ma hai fatto una scivolata pazzesca. Ma quale scivolata di cosa? Quattro manganellate, quattro, ma che c'entra che siano lavoratori? Possono anche essere studenti. Fai parlare Sandra, hai già parlato tu, Sandra. Dì che hai sbagliato. Ma quale sbagliato? Ma quando mai? Ma quando mai? Vabbè, sì, fai più bella figura. Sandra, bella figura, ho detto una cazzata. Va bene, d'accordo. Sandra, dimmi. No, vabbè, questo ti volevo dire. Poi l'altra cosa che ti volevo dire è che la CGIL, poi sbagliato o non sbagliato, però è certificata, perché sono le aziende che certificano gli iscritti al sindacato, capisci? Certo. È allora dillo al tuo, dillo al vostro ex Cremaschi, che ha detto che nel congresso della CGIL per l'elezione della Camuzzo ci sono stati dei brogli, ha parlato di tessere false. Dillo a lui, non lo dire a me. Non lo dire a me, non lo dire a me, non lo dire a me, dillo alla Picerno, no, dillo alla Picerno, bene, non lo dire a me. Lo dico alla Picerno, lo dico a chi vuole. Appunto, dillo alla Picerno, dillo alla, alla, che è una del PD, non è certamente una di Forza Italia, dillo a Cremaschi, dillo a Cremaschi, non a me. Lo dico a tutti, a Cremaschi, alla Picerno. Il tesseramento è regolare, il tesseramento è regolare, benissimo, il tesseramento è regolare. Va bene, grazie, Marco da Modena, Marco. Grazie. Buonasera. Dimmi Marco. Niente, io sono intervenuto per difendere la Chienghe, sì. Perché quando ha detto che la Lega l'ha messa fuori legge, lei ha parlato come che fosse un'eresia, mentre noi sappiamo... Una follia totale, una totale follia. Una follia totale, mentre la nostra Costituzione prevede ad esempio che il partito fascista sia fuori legge. Sì, e infatti nessuno ha intenzione di mettere fuori legge in Italia né partiti che si richiamano apertamente al fascismo come Forza Nuova. Lei lo sa che durante il meccartismo il Partito Comunista è sempre stato fuori legge negli Stati Uniti, lei lo sa. Senti Marco, se tu vuoi mettere fuori legge la Lega, tu sei liberissimo di pensarla così. Io penso che sia una cosa inenarrabile, una cosa folle, che un europarlamentare del Partito Democratico voglia, invochi la chiusura di un partito che ha il 10% di consenso, ma al di là del consenso, anche avesse l'1%, non è quello il punto, semplicemente perché alcuni suoi esponenti ogni tanto la fanno fuori dal vaso, se possiamo dire così. Questo è il punto fondamentale. Cioè, lei dice che la Lega è un partito apertamente razzista, magari richiamandosi a quello che è successo oggi. Vabbè, se secondo lei un partito apertamente razzista che va fuori dalla Costituzione, benissimo, promuova una raccolta di firme per mettere al bando la Lega. Il fatto che lo faccia un europarlamentare del Partito Democratico, ex ministro, per me è una follia. Ma maledetto il giorno, io dico, che mio marito mi ha fatto sentire questa trasmissione. Mi fate ridere, siete troppo simpatici. Allora, uno dei sindacalisti che ha subito delle percosse, delle manganellate, si chiama Rappa, è il vice di Landini. Sentitelo, eh. Siamo arrivati a ridosso di un blocco, diciamo, della celere. Mentre stavamo interloquendo a freddo abbiamo avuto una carica bestiale, immotivata, non c'era stato nessun atto di nervosismo né di, come dire, provocazione da parte di nessun lavoratore. Ai. Lei ha riportato dei punti, abbiamo visto prima. 5 punti. 5 di voi sono finiti qui al Policlinico Umberto I. Sì, il pestaggio a freddo non solo dei 5 che siamo finiti qua al pronto soccorso, ma anche di decine e decine di lavoratori che sono rientrati a Terni tumefatti, è inspiegabile. Landini, feriti solo tra gli operai, non tra i poliziotti. Noi ci abbiamo i feriti, ce n'è ancora qualcuno che è ancora in ospedale, oltre a qualcuno che è anche qui in questa sala con i punti sulla testa. Di altri feriti non ce ne sono, non raccontiamoci storie, tutto è stato messo alla luce con trasparenza e abbiamo impedito che degenerasse una situazione. Alfano, la preoccupazione era che i manifestanti andassero in stazione. C'erano delle voci, delle voci. Peraltro è subentrata anche la preoccupazione che alcuni manifestanti volessero in realtà dirigersi verso la vicina stazione Termini, atteso che tale voce era stata colta dai funzionari di polizia in servizio a Piazza Indipendenza. Allora, c'è qualcos'altro però. Il presidente della regione Veneto Zaia, il presidente della regione Veneto Zaia, ha ingaggiato guerra nei confronti degli Stati Uniti, verso gli Stati Uniti, il leghista Zaia, perché vorrebbe che i militari messi in quarantena per controlli, no, per sospette Ebola nella base militare in Veneto americana, Zaia vorrebbe che tornassero negli Stati Uniti. Caro Zaia, amico mio, non è possibile una cosa del genere. Gli americani ci danno un sacco di soldi. Se vogliono controllare i loro militari lì, li controllano lì. Cioè, come fai tu a dire andassero via negli Stati Uniti? Guerra all'America, Zaia. Noi confermiamo la nostra amicizia con gli americani, con gli Stati Uniti, però è altrettanto vero che il tema della quarantena, me lo sono chiesto, io l'avrei fatta fare a casa loro, non capisco per quale motivo si debba annunciare una quarantena di militari che arrivano dalla Liberia qui in Veneto. Cioè, non sta nelle cose che se un militare deve fare un periodo di quarantena lo faccia in paesi altrui, lo farà a casa sua. Ieri mi sembra che Bitonci vi ha dato picche, caro Parenzo. Bitonci e tutta la giunta, non soltanto lui. Cioè, ti sei presentato. Allora, questo è il comunicato del sindaco di Padova, Bitonci, che secondo me in questo caso ha perfettamente ragione. Se l'ex ministro Kyenge vuole parlarmi, perché l'ex ministro Kyenge, che oggi ha detto che la Lega è da mettere fuori legge, dunque vuole incontrare un fuorilegge in sostanza, cioè Bitonci. Cioè, voleva incontrare un razzista. No, voleva incontrare quello che lei dice essere un razzista. A suo avviso, una ordinanza folle. Sì, poi però oggi ha detto che la Lega è da mettere fuori legge, che è un partito razzista. Ha detto che per certi provvedimenti che la Lega prende sono provvedimenti razzisti e quindi per alcuni provvedimenti andrebbe comunque valutato, voleva incontrare l'esponente di un partito che lei vuole mettere fuori legge, sì, comunque per va benissimo discutere con lui bene. Il titolo di questo provvedimento, però siccome lui non c'era, Bitonci ha detto, sì, se l'ex ministro non c'era. Se l'ex ministro Kyenge vuole parlarmi, invece di presentarsi di soppiatto a Palazzo Moroni quando sono impegnato altrove, quando sono impegnato altrove con un codazzo composto da teleoperatori e showman, faccia come tutti gli altri cittadini, prenda la residenza nel quartiere secondo, il 17 novembre venga al Palace Piller e aspetti il suo turno, visto che quel giorno incontrerò i cittadini all'Arcella. Se uno vuole incontrare il sindaco, prende appuntamento col sindaco, non è che si presenta. L'ex ministro Kyenge, essendo stata eletta nel nord-est, ha detto voglio parlare con il sindaco, e ha fatto un giretto in città, voleva incontrare, noi l'abbiamo seguita, altri membri della giunta per chiedere spiegazione, e lui non si è presentato, ha preferito non presentarsi come tutta la giunta, e a un certo punto ci hanno anche fatto allontanare dal Palazzo Moroni. Non è che può incontrare il sindaco così, ecco, senza appuntamento, cioè... Valuteranno i cittadini, poi se no, questo ha sempre detto era a disposizione. Beh, aveva detto in campagna elettorale, c'è anche sul suo Facebook. Certo, sono a disposizione. Sono tutti i giorni a disposizione. Ma in questo caso tu che hai fatto? Il militante anti Bitonci? No, io ho accompagnato. Il ruolo qual è stato? Militante anti Bitonci? Io per Matrix ho documentato l'arrivo del ministro a Padova e ho seguito la sua giornata. Militante anti Bitonci? No, perché militante? Insieme hai fatto anche militante anti Bitonci. Nessun militante di Bitonci, ho accompagnato la Kyenge in visita a Padova. Hai accompagnato la Kyenge in visita a Padova con le telecamere, ma mica perché sono il suo accompagnatore, no, perché ho documentato, però, la notizia, e insieme hai fatto anche un po' di fatto da militante anti Bitonci. No, militante anti Bitonci, ma è stato anche molto molto simpatico, se ogni tanto si prestasse anche a rispondere alle domande dei giornalisti, anche quelli che vengono da fuori. Magari non vuole rispondere alla Kyenge insieme a Parenzo, magari non vuole rispondere a voi. Infatti legittimo per lui, questo non è nessun problema, infatti. Appunto. Noi siamo rimasti là ad aspettare, abbiamo incontrato molti migranti, abbiamo chiesto la tessera sanitaria, sì, a tutti gli immigrati che erano a Padova, abbiamo verificato che fossero in regola. Vi ha dato buca, benissimo. Riccardo e da Torino si è presentato. Riccardo, però da prima Torino, tu hai detto un'altra fregnaccia, sì, fammi, cioè, sentire detto... Riccardo da Torino un attimo, poi, no, poi me lo sulla dici. Questione del lavoro, sulla poi me lo dici, lavoro. Poi hai me lo dici. Che sono privilegiati, ma no, rispetto agli altri, ho detto, rispetto agli altri. Privilegiati un cazzo. Riccardo da Torino. Sono persone che hanno perso il lavoro, come si fa a dire? Rispetto agli altri, rispetto sono agli altri, ho detto. Sono organizzati. Riccardo da Torino, ho detto rispetto agli altri. C'è la Fiomma. Appunto, è questo. È esattamente questo, rispetto agli altri. Sono organizzati. Rispetto agli altri. Io dico quello che mi pare, non me lo devi dire tu. E beh, tu dici che è una scivolata. Tu dici che è una stronzata. Io dico, tu dici una stronzata e una scivolata. Io dico di no. Uno che perde il lavoro. Riccardo da Torino. Riccardo da Torino. Va bene, abbiamo capito, abbiamo capito. Riccardo, vai. Finto intellettuale di sinistra, che è un finto intellettuale di sinistra, che mi deve spiegare cosa ha fatto negli ultimi 10-15 anni la CGIL, che ha mandato questo paese nella merda. Sì. Nella merda, se tutti gli imprenditori scappano, si deve chiedere perché lo fanno. Bravo, bravo, bravo. E abbiamo i coglioni pieni di sto sindacato, di gente che gira, la signora gira con la scorta e con la macchina pagata dagli operai. Ha avuto le minacce del Brigate Rosso. Ma che minacce, ma che minacce! Siamo l'unico paese che ha la scorta. Se vai, sì, il primo ministro finlandese o della Danimarca non ha nessuna scorta e va a lavorare in bicicletta. Ci inventiamo le cose in un paese che è finito. Glielo dica la questura perché ha la scorta, glielo chieda la questura. E ti sta parlando un imprenditore, ne hanno i coglioni pieni, sono andato davanti a dei giudici. Se questo è un imprenditore, perché dei dipendenti, perché dei dipendenti si sono inventati delle cause e mi sono sentito offeso, ho dovuto tirare fuori dei soldi per delle cose inventate e sostenuti da dei sindacati inesistenti, che quando ho pagato i sindacati, caro mio signor Parenzo, ok, si sono venduti. Che vuol dire pagato i sindacati, Riccardo? Pagati i sindacati a trattative all'Unione Industriale di Torino, il sindacato pagato al di fuori metteva a posto tutto. Ma pagato al di fuori che vuol dire? Che lei pagava in nero? Pagato a volte anche solo, ti faccio passare questa situazione sindacale dove tu per ragioni aziendali devi ristrutturare, quindi facciamo fuori 40 dipendenti e mi fai rientrare la mia amica rumena dall'altra parte. Okay? Questi sono fatti. Questi sono i sindacati in Italia. Ma che ci hanno mandato dal culo. Dal culo siamo, un paese finito. Le vere, okay, manganellate. Sono questi intellettuali di sinistra, come Parenzo, che difendono ancora. Quattro manganellate che non esistono, strumentalizzazione dei giornali. Che non esistono, bravo. Ma ha ragione Riccardo, quattro manganellate. Tutti i giornali, perché quegli operai lì sono tutti da difendere. E l'imprenditore, ti ricordo una cosa, e l'imprenditore, l'operaio lo difenderà sempre, perché è fonte della sua ricchezza. Non ho mai visto un imprenditore che va contro i suoi dipendenti, non l'ho mai visto, mentre ho visto tante volte il dipendente andare contro al suo imprenditore, ricordatelo, proprio per quell'idea di sinistra di merda che abbiamo in Italia. Comunque, tu sei un sinistroide del cazzo, e quando parli così alla radio, questo paese andrà sempre più nella merda. Allora, Riccardo ha detto una cosa giustissima, le vere manganellate... Faccia quei 500 lavoratori. Sì, sì, ma le vere manganellate... Ma i 500 lavoratori sono da rispettare! E se qualcuno ha sbagliato la polizia, se qualcuno ha sbagliato la polizia deve anche pagare, io ti sto parlando di altre cose, di una manifestazione anacronistica in questo momento, che non esiste in un paese che è già dal culo. Ma dove era la Camusso quando le aziende chiudevano tutte? Ma dove cazzo era? Guardi che dove siccome cazzo questi era? Questi qui il lavoro ce l'avevano, semplicemente quando erano questi qui il lavoro ce l'aveva. Sì, quando a Torino, alla Thyssen sono morti, bruciati vivi quei poveri ragazzi. Dove era il sindacato? Dove era il sindacato a tutelare il posto di lavoro e la qualità del lavoro? Dove era? Ma lei è scemo in testa proprio. Allora, ma lei è io sono testa. Scemo. Vale, no, tu sei scemo e ti fanno anche parlare, ti fanno parlare anche alla radio. Imbecille. E questa idea ti sono morti i lavoratori del problema. Sai qual è il problema? Hai detto una cazzonata pazzesca. Il problema è che tu, fallo parlare. Il problema è un imbecille, non hai mai fatto azienda. Sai qual è il problema? È che muovi solo la penna e forse qualche idea. Tu azienda nella tua vita non l'hai mai fatta e l'operaio neanche. Io invece ho fatto l'operaio e ho fatto azienda e quindi io mi posso permettere di parlare e tu sei della stessa forza di quei quattro magistrati, ok, che si mettono del lavoro, che si mettono a giudicare senza non avere mai lavorato, perché li paghiamo noi come paghiamo te, caro mio, hai capito? Beh, adesso non è che lui in realtà questo no. Ti parlo anche delle tessere della CGIL. Fermo lì. Quanto vale la CGIL in un paese come l'Italia, dove gli operai non esistono più e non esistono più loro per colpa degli imprenditori. Guarda che le manganellate sono quelle che hanno preso, le manganellate sono quelle che dà lo Stato alle imprese. Vabbè, se andiamo a riassumere la questione della Thyssen, è chiaro? Vabbè, certo, sì, certo, certo. È un'altra persona puttana. A questo punto, caro Parenzo, ci voleva un intervento di Mario Capanna. Buonasera, Capanna. Buonasera. Come andiamo? Io bene, ma chi mi parla? Quel reazionario conduttore della Zanzara? Assolutamente, assolutamente, in persona. Quello che ha detto che ieri sono scappate quattro manganellate l'altro giorno, ieri, insomma quello che è, sì, ieri mattina. Ah, quattro manganellate. In fin dei conti... Diglielo in faccia quei 500. Ma io lo dico, più in faccia di questo, più che dirlo alla radio, che devo fare? Ma no, ma non chiuso nello studio, vai a diglielo mentre protesto. Ma no, ieri ma quattro erano, manganellate. Purtroppo ieri io ero a Padova, ma se fossi stato a Roma, siccome la manifestazione è avvenuta esattamente davanti alla sede di Radio 24, perché piazza gli scontri veri e propri sono avvenuti esattamente, lo so. No, lo dico anche a chi ci ascolta, tu lo so. Allora, lo sai, volete da me? Aspetta, fammi parlare con Capanna. Allora, come che vogliamo da lei? Innanzitutto, sono manganellate di Renzi, quelle di ieri? Ma questo... Beh, anzitutto diciamo che il ministro degli interni, facendo proprio la versione della questura, ha mentito alla Camera e al Senato. Avete visto voi il video della questura? Sì, sì. È stupendo, perché non ho mai visto una questura che spara sulla rete una roba che gli va contro. Allora, il video della questura dice: i poliziotti hanno manganellato perché i 500 facinorosi operai volevano andare verso la stazione Termini a occuparla, imboccando via Solferino. Sì. In realtà dal video si vede che gli operai imboccano via Curtatone, per chi conosce Roma, cioè esattamente in direzione opposta alla stazione Termini. Sì. Il fatto che il ministro degli interni avalli questa... No, non è avallato, ha detto che c'erano voci e c'è stata confusione su questo. Perfetto, qua, attenzione. Perfetto. Avalla, quindi avalla la cosa. Vabbè, certo, non è che può andare contro la polizia il ministro degli interni. No. Allora, tutti sanno, non solo io per esperienza, no, che quando ci sono incidenti di questo genere, 90 volte su 100 questure e ministro degli interni dicono balle. E queste sono stati colti in castagna, no? Non erano quattro manganellate, per così dire erano forse più di otto, è stata una bella gragnola di colpi, del tutto immotivato. Vabbè, d'accordo, del tutto immotivato, questa è la sua opinione, in una dinamica di piazza, Capanna, possono scappare delle manganellate, su. Sì, lei ha fatte parecchie di manifestazioni. Posso farvi una proposta? Sì. Anche a tutela degli agenti, polizia, carabinieri, quando sono in servizio di ordine pubblico, no? Mettere, come fanno gli impiegati, gli uffici e così via, un bel cartellino con il nome e cognome sul bavero della giacca. Lei sa benissimo che questo qua non si può fare, non si può fare questo. No, si può fare, basta volerlo. Sì, ma non si può fare, sarebbe succederebbe l'inferno, lei sa benissimo. Non succederebbe niente, nel senso che questo renderebbe più responsabili sia i dimostranti da una parte, sia le forze dell'ordine dall'altra. Però... nel senso che c'è il poliziotto che usa l'intelligenza, fa il suo lavoro con serietà, con equilibrio e così via, e quindi è identificabile per queste sue positive caratteristiche. C'è la testa calda, oppure il fascista, perché ci sono anche quelli tra le forze dell'ordine, che fa lo scimunito. Beh, il fascista, ed è chiaro che ne verrà chiamato a rispondere. Nome e cognome, per piacere. Vabbè, Scapanna, io però quello che voglio sapere da lei, al di là delle dinamiche di piazza, la cosa che voglio sapere da lei è questa. Molti attribuiscono a Renzi, stamattina la Camusso ha detto che che Renzi deve abbassare i manganelli. Allora, chiedo scusa, ma voi della Zanzara, domanda, avete cognizione di un sondaggio fresco fatto lunedì scorso? Di che tipo? No. Che tipo di sondaggio? No, non avete cognizione, sennò avreste subito mangiato la foglia. E purtroppo ovviamente non l'hanno dato né i grandi telegiornali né i grandi giornali. Che sondaggio? Ve lo do io, vi do io una notizia, certo. La Zanzara, no? Poi dopo mi pagate naturalmente. Allora, il 27 ottobre, quindi lunedì scorso, Affari Italiani. Il sondaggista è Piepoli, quindi si intende della materia, no? Ha fatto un sondaggio dicendo, dopo la chiusura della Leopolda, con Renzi che ha detto tutte le faccende che sapete, no? Il telefono sull'iPhone, le persone, eccetera, eccetera, dice, siete d'accordo con il Presidente del Consiglio o con la CGIL, che c'era stata il giorno prima la grande manifestazione per San Giovanni? Ebbene, il risultato è... 57% degli italiani, con tutto il valore relativo che sappiamo bene, per Renzi. 50% degli italiani, 57% degli italiani a favore di Landini Camusso e 40% per Renzi. Ma che vuol dire questo? No, vuol dire che stando a questo sondaggio, come dire, fatto da Piepoli, che non è l'ultimo degli inesperti. Gli italiani starebbero con Landini. Io però le ho chiesto un'altra cosa, dopo la pubblicità mi risponde, cioè sono manganellate quelle di ieri del governo, come ha detto la Camusso, come ha detto Landini, c'è stato un ordine superiore, cioè come ha detto anche Zoggia del Partito Democratico oggi, un esponente importante bersaniano, che ha detto dopo che ha parlato Serra, a Davide Serra, il finanziere, alla Leopolda, poi sono scattati manganelli, sono partiti manganelli, cioè questo dicono alcuni esponenti della minoranza del PD e esponenti importanti del sindacato. Vorrei dare un'opinione su questo. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Leggo da qualche parte, guarda, non so se sia vero, 23 volte il consumo di ostriche per 23 volte. Ha parlato di aragoste, io sono allergico alle aragoste. Ho capito, però pare che per 23 volte tu hai mangiato ostrica e champagne. Ma nel senso che lì vai a vedere. Ma non tu, qualcuno. Allora, adesso mi incazzo. Lo champagne è quello che ti viene dato quando tu vai in qualunque ristorante e ti danno il frutto iniziale. Pensa che tu lo chiedi. Beh, adesso, caro Augusto, va benissimo tutto, la condanna in secondo grado forse è sbagliata, rispetto anche alla soluzione in primo grado per le spese di rappresentanza quando eri direttore del TG1, però non è che adesso se tu ti siedi in un ristorante a Roma, sarà capitato a Parenzo, sarà capitato a Capanna sicuramente, non è che se uno si siede in un ristorante a Roma la prima cosa che ti portano è una coppa di champagne, sì forse quando stai, che ne so, al Bolognese o non so in qualche altro ristorante, non è che tu ti siedi, tum, arriva la coppa di champagne, cioè, Parenzo a te capita? No, non mi è capitato, mi può essere capitato una volta ogni tanto quando vai in un posto. Sì, arriva il prosecchino, ti chiedono, vuole il prosecchino? Vuole un prosecchino così? Cioè, no, non è che a Roma si fa così. Comunque lui dice anche che a pranzo, a cena ci andava controvoglia quando era direttore del TG1, semplicemente perché a Roma si fa così. Ma andate troppo a pranzo e a cena a carico quando... senti, io sono uno che sta attento alla linea, se ci vado è perché mi ci tocca andare, se no non ci andrei. Ho capito, ma stanno tutti questi salotti rosati e il bolognese, sempre a pranzo e a cena fuori. Che cazzo. Ma conosci Roma, allora andiamo tutti a Milano, probabilmente ci sarebbe un atteggiamento diverso, o andiamo diciamo dall'altra parte. Ma non è che ci vai, è che tante volte, cioè non è che tu ci vai andare, ma sono quelli che devi incontrare che ci vanno, ok? Allora... adesso, non si può fare il direttore del TG1 senza andare a pranzo, a cena, nei ristoranti, come dire, da tot euro dove offrono le coppe di champagne come entrée. Adesso, francamente, non mi pare così. Non mi pare che sia così, dai, su. Cioè, non è che un si... bacino grosso e un abbraccio forte. Sì, d'accordo, bacino, ciao, Minzolini, ciao. Va benissimo. Però il direttore del TG1 si può fare anche senza andare a pranzo e a cena con la gente, dai. Tu sei abituato, sei a Roma, Parenza, andare a pranzo, a cena, a fare relazioni pubbliche? No, ma ultimamente è stato poco a pranzo e cena. Dopodiché si può andare a mangiare anche da Gigi il Troione. Non è che uno deve per forza... Capisco che il direttore del TG1 non è che va a mangiare da Gigi il Troione. Però ci sarà un di mezzo tra il grande ristorante e Gigi il Troione. Per intenderci, dove sì, non credo, quello sì, e soprattutto non è, che, non è che uno è forzato, no? Siccome io sono. No, non è, ecco, non è che arrivano e ti dicono, ti puntano una pistola e dicono adesso beva questo Moët Chandon del 65, per cortesia, no? Non credo che funzioni così. Adesso non lo allora, so abbiamo, io, con noi, abbiamo con noi Mario Capanna. Mario Capanna, allora, beh. Vorrei rispondere alla domanda che mi è stata posta prima, Su Renzi. Ma Renzi, come lo vedi, Mario? Personalmente, io non credo che l'ordine della bastonatura sia arrivato da Renzi, sì, da Alfano, da Del Rio e così via, ma per così dire questo paradossalmente è peggio, nel senso che la bastonatura è partita, come dire, grazie a un clima di tensione artificiale che si è creata, ma vorrei dirla in questi termini con grande pacatezza, ma ci rendiamo conto o no che la metà circa di questo paese delle famiglie è alla disperazione? Vabbè, ma questo che c'entra adesso? No, un momento. C'entra, perché se il Presidente del Consiglio dice chi lotta per mantenere l'articolo 18 è un vecchio rincoglionito conservatore, dà dell'imbecille a milioni di lavoratori che non solo non arrivano più alla fine del mese, ma che perdono il lavoro. Ma non è così. Faccio un esempio per capirci. È mai possibile oggi in un paese come questo che il Papa Bergoglio sulle questioni della dignità del lavoro, poi è diventato l'idolo dei della sinistra, della lotta contro le ingiustizie e così via, scavalchi a sinistra non solo il Presidente del Consiglio, che non ci vuole, ma molto. Il Papa mica governa, è facile parlare, no, ho capito, d'accordo, però ne prendiamo atto oppure no? Sì, ma il Papa ora, è facile andare là davanti ai no-globe, ai movimenti, posso porvi io una domanda? Come mai del cosiddetto Job Act o ACT, come si dice all'inglese, è molto contenta la Confindustria, Marchionne e così via, e non sono contenti quelli che dovrebbero esserne i principali beneficiari? Perché il mondo cambia. Cioè i lavoratori. No, ma voglio dire, ma qualche dubbio... Capanna, ma Renzi è di sinistra? Che cosa ha di sinistra? Niente? Che cosa? Renzi. Beh, guarda, Renzi è una persona... indubbiamente sveglia, non a caso, ahimè, è un capricorno come me, quindi tignoso, tenace, bravo a parlare a braccio. È pericoloso? Passo. No, il problema è che quando lui è nato nel 1975 aveva, come dire, erano passati 6 anni dallo Statuto dei diritti dei lavoratori, della e meno male. 69, no, e ho il timore, da come parla e dalle cose che propone, che non lo conosca, per cui no, tramite voi... Ma è pericoloso come personaggio? No, vi do un'altra piccolina notizia. Tramite voi vorrei comunicargli che io sono a sua disposizione, e ovviamente in modo del tutto gratuito, per delle lezioni di aggiornamento su quello che è stato l'autunno caldo del 69, e in particolare quanti sudori di lotte e di ore... Penso che Renzi se ne freghi di queste cose. Di ore di salari, come dire, che gli operai si sono consumati, e perfino anche quanto sangue scorso per le piazze per conquistare lo statuto dei diritti del lavoratore. Va bene, senta, la Picerno come la considera lei, che ha detto che le tessere della CGIL sono tessere false per l'elezione della Camusso, i pullman pagati? È la prova che essere giovani non significa essere saggi, no? La Picerno è un'altra che ha bisogno di lezione di aggiornamento, cioè parla così, poi dopo si è scusata, no? Ma quelle robe non si dicono, perché... Cioè, io non capisco, ma perché non discutiamo di merito, no? Ma se ne frega della Picerno... Ma il PD che partito è ormai? È un partito oggi, il partito di Renzi, il PD è un partito di destra? Un partito che si fa dettare la linea dal finanziere Davide Serra? Che partito è? Ma guardi, bisogna dare a questa domanda non delle risposte ideologiche, no? Delle risposte basate sui fatti. Allora, primo, cominciamo dal semestre europeo. No, qualcuno, non cominciamo dal semestre europeo. Qualcuno al mondo in Italia si è accorto che dal primo di luglio scorso Renzi e il governo italiano presiedono l'Europa. No, no, nessuno. È stato fatto assolutamente nulla. Secondo, che cosa viene fatto per promuovere gli investimenti, ad esempio nella ricerca scientifica, come noto? Sì, lo so, però io da lei voglio una definizione di Renzi. Lei come lo definisce Renzi? La prima cosa che le viene in mente di Renzi qual è, se pensa a Renzi? Sto dando degli atti. Sì, sì, no, d'accordo, ma d'accordo, però lei che cosa? Il giudizio è ideologico. No, vabbè, ma d'accordo, però io vorrei sapere, lei quando vede Renzi a che cosa pensa? Ma penso a un giovane, come dire, che è molto padrone di sé, che è molto avventato. Dirò di più, i greci, chi ascolta a buon livello di cultura, no? Boh, direbbero, dipende, che pecca di ibris, e cioè tracotanza, prepotenza. Prepotenza. Lei si fida? No. No, dopodiché, quando è chiamato a un confronto scappa, dicendo io con voi non mi confronto. Ma come non? E gli uomini che lo circondano? E beh, se li hai scelti, come dire, a pari grado, no? Cioè, le sembrano, che ne so, Boschi, Picerno, le sembrano dei pappagalli? No, ma voglio dire, ma capisci, no? Dopodiché, nella compagine di governo c'è Padoan, ma perché l'ha imposto Napolitano, ha detto, no, scusa, lì ci va messo uno che faccia bene gli interessi della Commissione europea, come infatti sta facendo, e quindi non va bene una qualsiasi Boschi, una qualsiasi Picerno, no? E lì Renzi ha dovuto abbozzare, no? Sì, io la cosa che voglio capire è un governo di destra questo qua in Italia oggi? No, è molto peggio, cioè? È un governo sedicente di sinistra, e molti ci cadono perché lo credono e lo ritengono di sinistra, che fa una politica neoliberista di destra. Io sai, Parenzo, come i fatti dicono, no? Come i fatti che ho cercato di elencare. No, ma volevo capire da Marione Capanna una cosa, ma chi è per te il... quello più di sinistra, il governo, almeno uno di sinistra, vero? Ce ne sarà il governo? No, chi c'è? Nessuno. Chi c'è? Ma chiedo, non è assolutamente rilevante, ripeto, ma la politica, l'essere di sinistra, di destra o di centro, lo si giudica dai fatti. Permettetemi un'altra osservazione che è proprio in tema, no? Allora si dice, bisogna rilanciare gli investimenti perché solo così si crea occupazione. No, benissimo, da un governo realmente di sinistra mi aspetto, primo, che si riducano le spese militari. Sì. Secondo, che dato che le statistiche dicono, non io, le statistiche, che il 10% della popolazione italiana possiede circa il 50%... La patrimoniale. Beh, ovvio, no? La patrimoniale. Ma perché non si hanno comunque le palle di prendere il manganello vero? Non è quello che abbiamo visto ieri in piazza, io ripeto, è quello contro le imprese italiane. Nessuno viene più a investire qua, nessuno viene più, la Thyssen va via, non perché sono brutti, sporchi e cattivi i tedeschi, ma perché c'è la concorrenza che era pronta a prendere. Vabbè, ma quelle sono altre dinamiche, io sto dicendo perché non c'è più, non c'entra niente, la Thyssen se n'è andata perché voleva fare ancora più profitto. E beh, ti credo, bene, e ti credo, e ti credo. Ma in realtà, se quello stabilimento fosse produttivo, lo sanno tutti, sì. È l'Europa che ha bloccato. Va bene, l'Europa che ha bloccato, bla bla bla. Ma leggi titolario di Vico sul Corriere, bla bla bla. Ma dimmi, scusa, dimmi Capanna, dimmi. Trovo strano che in questo paese debba essere un filosofo non marxista come Emanuele Severino a ricordare che scopo essenziale del capitalismo è il profitto. Certo. Quindi la gente, le imprese, le multinazionali stanno in Italia o delocalizzano, vedi Marchionne, sulla base delle loro esigenze di aumentare il profitto. Allora degli operai che abbiano un lavoro, che non l'abbiano, che le loro famiglie vanno da Ramengo, non gliene impipa assolutamente nulla. Ragazzi, ma dove campate? Uscite dalla bolla mediatica? No, ma assolutamente è così, certo, ma assolutamente. Va bene, Mario, ti saluto, ciao, a presto, ciao. Ciao. No, e come, la finite così? E come dobbiamo finire? Che c'è altro da dire? C'è qualcos'altro da dire? C'è altro da dire. C'è una valanga di cose da dire. No, ma Serra, il finanziere, che è vicino al PD, ti fa orrore quel fatto che stia lì a parlare con Renzi, eccetera? Quello fa un sacco di... guarda che ormai io sono talmente, come dire, arricchito dall'esperienza che niente più mi fa orrore. Ma è appunto, è un altro segnale maledettamente esplicito di quello che ho cercato di mostrarvi, no? Che questo è un governo sedicente di sinistra che però appunto alla Leopolda non c'era un operaio. E va bene, ragazzi, non c'erano gli operai, e va bene. Ma va bene, non c'erano gli operai, pazienza, non c'erano gli operai, pazienza. Però sono tutti segnali che contano, no? Io non sono un operaista, figuriamoci, no? Però questo paese, ma gli operai ci sono. Ma sarà un autunno caldo questo qua, secondo te? Ci sarà un autunno caldissimo, scontri di piazza, prevedi? Ma io questo non credo molto perché non ci sono le condizioni ovviamente dell'autunno caldo del 69, però è evidente che bisogna autorità di governo, di ordine sì, pubblico, che bisogna fare? Tutti gli attori politici, sindacali, eccetera. Beh, agire con molta, con moltissimo senso di equilibrio. Ah, su questo, perché sull'equilibrio, no, sull'equilibrio non c'è dubbio. Perché, capite, la mia convinzione è che agli operai, ai lavoratori, ai precari, gli andrebbe fatto un monumento per la grande, per il grande senso di equilibrio. Perché che dovrebbero fare? Invadere le piazze coi forconi, fare la rivoluzione armata, cosa dovrebbero fare se no? No, prendiamo atto che gli andrebbe fatto un monumento per la grande pacatezza, almeno fino a questo momento, vabbè, con cui si comportano, dati i drammi lancinanti che vivono, e non per colpa loro, no? Va bene, ciao Mario, a presto, ciao. Ciao. Ciao. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Allora c'è una simpatica, un simpatico direttore, io lo chiamo al maschile, il direttore della Padania che si chiama Lussana, signora Lussana, spesso ospite del programma della mattina di Alessandro Milan, che per motivi oscuri ce l'ha con questa trasmissione, con la Zanzara, non è l'unico ovviamente. E sentiamo, sentiamo, sentiamo. Cose recenti, cose recenti. Sì, Radio Padania sì, è sempre nel mio cuore, però devo dire che anche Radio 24 parte qualche trasmissione un po' sgrausa. Sì, sì, sì. Allora, tipo la Zanzara. Ovvio. Trasmissione sgrausa, sgrausa. Traduzione di sgrausa quale sarebbe? Traduzione chip, ma... chip, chip. Sì, sì, sì, sì, sì. Lussana, direttore della Padania, coi soldi nostri. Aspetta. Devi mandare qualche messaggio a Cruciani e Parenzo, così la chiudiamo lì. No, no. Vabbè, cosa vuoi? Ieri sera c'è stata apologia di reato. Di chi? Sì, beh, sì, c'è stata istigazione all'odio razziale contro i leghisti. Abbiamo tutti seguito le parole di un ex noto pubblicitario. E cosa vuoi? Non so, interverrà probabilmente Radio Padania oggi e salverà l'onore e la dignità di tutti i leghisti. Questo sulle parole di Toscani. Diglielo Aurora, io non c'entro niente, ma chi è che, chi è che ti importuna? Per un'altra trasmissione di Radio 24 che ha invocato la jihad contro Radio Padania, ma Milan è quello bravo. Va bene Aurora, ma non ho capito, chi è che ti importuna dicendo metti giù? No, mi ha mandato il messaggio, non ci credo, niente, a posto, scusatemi. Allora, io vorrei che la signora Lussana, da qualche parte, che la signora Lussana da qualche parte parlasse dei 70 dipendenti della Lega che probabilmente per motivi giusti, perché non c'hanno più un euro, perché non c'è più finanziamento pubblico, bel sito, eccetera eccetera, cioè non c'è più il finanziamento pubblico, dei 70 dipendenti della Lega che da un giorno all'altro sono stati licenziati. Ora per me Salvini ha fatto benissimo, se questa era l'unica cosa da fare ovviamente, no? Però perché non ci parla dei 70 dipendenti della Lega licenziati? Ci parlasse di questo, no? Signora Lussana, quando va da Milano la mattina parlasse dei 70 dipendenti della Lega licenziati. Avanti, vediamo se sta dalla parte di chi li vuole licenziare oppure dalla parte dei lavoratori. Vediamo se poi parla di Renzi che licenzia, di Renzi che bastona, come fa la Lega in queste ore, no? Che dice la Lega bastona i dipendenti, il governo bastona i manifestanti, che non c'entra nulla ovviamente, che questo è quello che dice la Lega in queste ore. No, ci parlasse anche dei licenziati della Lega, dai, forza. Esatto, esatto. Renato d'Aosta. Ciao. Dimmi, dimmi. Ascolta, io sono d'accordo con te in un certo senso. Le manganellate, quelle vere, non sono state quelle di ieri. E meno male. Anche se le manganellate spontanee proprio non vengono, diciamo. No, le manganellate sono manganellate quando il poliziotto usa il manganello, spontanee, però quelle vere sono quelle che lo Stato rifila ai suoi cittadini, ok? Questo da decenni, perché lo Stato si è ingrassato sulla pelle degli operai, dei piccoli imprenditori, degli artigiani, sulla pelle di tutti, diciamo. No, ascoltami bene. Si è ingrassato, si parla di retaggio del passato quando si parla dell'articolo 18. Bene, la legge che regola lo stipendio dei parlamentari risale al 65. Non è forse quella da rivedere? Vabbè, Renato, no? Qualcosina è stato rivisto da quel punto di vista, allora, forse poco. Lo stato parassita, come molti parassiti, sì, rischia di arrivare ad uccidere l'animale ospite e di morire dalla propria ingordigia. Vabbè, adesso questo che cosa c'entra con quello che è successo l'altro giorno? Scusa, spiegami. Sono queste le manganellate che lo Stato sta rifiutando. Le manganellate, secondo me, sono quelle nel caso della Thyssen che lo Stato dà alle aziende che scappano, punto e basta. Cioè, no, questo è il punto. Le manganellate le aziende scappano perché non hanno voglia a che fare con uno Stato imbroglione. Ah, non c'è dubbio. Ecco, quindi poi nel caso della non soltanto per il sindacato, mica solo per il sindacato. In questo paese per avere una licenza deve andare a fare il culo politico. Assolutamente. Assolutamente. Non credo che nessun imprenditore si fermi perché qua c'è l'articolo 18. Forse magari ci fermano perché c'è lo Stato che ti cambia la tassazione. Comunque, da un giorno all'altro. Le vere manganellate non sono quelle di ieri, sono quelle che lo Stato dà alle imprese. Sono quelle che lo Stato dà da decenni ai cittadini. Vabbè, che sta rischiando di fare crepare tutto quanto il sistema per la propria ingordigia. E non dimagrisce mai. Un altro elemento. I lavoratori sono stati manganellati due volte. La prima quando lo Stato gli chiede le tasse, perché il lavoratore referente degli imprenditori non può evadere. Non può evadere. Poi? Quindi chi paga le tasse fino in fondo in questo paese sono i lavoratori. Prima manganellata che gli è arrivata. Va bene, la poi? Seconda è quella fisica che spesso gli arriva perché hanno l'ardire di protestare. Spesso gli arriva. Non mi sembra che ci siano manifestazioni in cui ci sono poliziotti che manganellano. Di continuo, sono, ma che dici? Dai, su, non dire stupidaggini. Io sono il primo che alle volte, quando ci sono degli scontri con la polizia, vedi in Val di Susa, ad esempio, sono sempre stato dalla parte. Senti, tu sei quello che dice che gli israeliani fanno bene a bombardare i palestinesi, e poi adesso ti stupisci per quattro manganellate. Dai, su. Un esempio più stupido. Ti stupisci per quattro manganellate, dai, su. Un esempio più stupido, ma non potevo farlo. Ma fate stupidissimo. Ma cosa hai mangiato? Pane e idiozia la mattina. Mario Campobasso. Mario Campobasso, adesso ti stupisci per quattro manganellate. Cioè, dai, vorrei su. Dire a quell'anima bella di Parenzo e a Liguori che la libertà di scioperare finisce dove comincia la libertà di chi ha anche il diritto di fottersene altamente dei problemi dei lavoratori, di chi perde il lavoro. E ti becchi lo sciopero. Uno si incazza, però ha anche il diritto di incazzarsi o no? Oppure ti vuoi incazzi, ma ti becchi lo sciopero, chi se ne frega? Liguori va a dire no, gli stagini, che ci sta l'occupazione della stazione, capito? La solidarietà, ottimo, ha ragione Liguori, infatti. La solidarietà non pensa come state messi. Parenzo e Liguori uniti da vecchie militanze nella sinistra, nel caso di Liguori dell'estrema sinistra, dicono che va benissimo occupare una stazione, che ci sta che uno occupa la stazione. Non capite perché ci sono diritti veri. Ma quale che cazzo c'entrano i diritti con le manifestazioni? Una mazza! Non è mai cambiato nulla per le manifestazioni, mai nulla! Ma tu scherzi, Mario, non è mai cambiato nulla. Mario, nulla. Non sai cosa. Perché tu hai sempre avuto tutto, ma per forza. Che c'entra? Anche tuo cosa c'entro io? Ma che c'entro io? Ma che c'entro io? Ma devi sempre mettere in mezzo queste cose ridicole. Queste cose ridicole. Io non c'entro una mazza, smettila di dire stronzate, Mario. Non si sono mai ottenuti diritti facendoci scioperi. Ma dove cazzo? Mario da Campobasso. Mario da Campobasso. Le manifestazioni oggi non portano a nulla. Mario Campobasso. A nulla, Mario Campobasso. Mario, continua, dai. Se pago un biglietto del treno perché ho viaggiato, perché ho bisogno di viaggiare, io ho diritto alla prestazione per la quale ho pagato e me ne fotto altamente, perché qui non è che uno si deve sentire in colpa perché non ha problemi, perché non ha il posto di lavoro e deve subire le rotture di coglioni da parte degli altri, perché la libertà di ognuno finisce dove comincia quella dell'altro. Capito Parenzo? È utile che fai l'anima bella e poi bevi il prosecco e mangi i formaggi costosi. Ma vai a fanculo tu il prosecco, i formaggi. Io dico semplicemente un'altra cosa, non me ne frega niente. Io stesso alle volte mi sono imbattuto, dovevo viaggiare, perché viaggio molto, perché sono una partita IVA e sono un lavoratore autonomo e non dipendente, e spesso per via degli scioperi sono arrivato in ritardo. Sì, lì per lì mi poteva dare fastidio, ma capivo perfettamente, sapevo distinguere la manifestazione giusta di protesta. E ho il diritto di non volerlo capire, è un mio diritto non volerlo capire. No, capisci, e ti becchi lo sciopero di nuovo, arrivi un'ora dopo e chi se ne frega, arrivi arrivi un'ora dopo, come sono arrivato un'ora dopo anch'io. I diritti non hanno prezzo, non è che se tu arrivi un'ora dopo o i diritti certo, non hanno che tu prezzo, non certo, certo, unico, certo, unico, non hanno prezzo i diritti, ma io mi auguro che a te ti capiti veramente a te ti dovrebbero, guarda, licenziare, ma te chi, scusa, tu cruciare in mezzo a una, sì, questo qui non lo so cosa faccia, vai. Finire in mezzo a una strada, ti lascio parlare di queste follie, dovresti finire in mezzo a una strada, ti sei fissato su questa cosa qua, ma vai pure, sì, assolutamente, vai pure, ripeti questa cosa come un mantra perché pensi di stuzzicarmi su questo. Strada, ma guarda che non me ne fotte nulla di quello che dici, non hai capito ancora. Mezzo alla strada, intanto integrazione, ma magari ti succedesse, sì, ma magari ti capitasse. Bene, bravo, come arrivare a fine bravo, mese. Mettiamo ma un applauso. Magari ti capitasse che magari un po' di empatia. Date l'applauso, vai. Ogni tanto. Date l'applauso. Ma magari. Applauso per Parenzo, vai. No, ma magari finissi in per il terzo quarto giorno di seguito. Terzo quarto giorno di seguito insiste con questa cazzata. Emiliano, provincia di Lucca. Te lo auguro di finire. Benissimo, io non auguro a nessuno, le disgrazie invece tu sì. Te lo auguro. Benissimo, Emiliano, provincia di Lucca. Emiliano, provincia di Lucca, vai bene. Vai, continua, non mi stimoli su questo, non ti preoccupare. Emiliano, provincia di Lucca, mi scivola addosso, non me ne fotte nulla. Emiliano, provincia di Lucca. Buonasera. Vai. Ciao. Io mi schiero purtroppo per Parenzo da parte praticamente delle ultime telefonate che hai ricevuto a conferma di quanto dicevi te, nel senso che comunque penso che sia assurdo. Cioè quando le forze dell'ordine, tra l'altro mi ricordano che Parenzo quando scioperavano i forconi era a spada tratta contro i forconi, i sì, blocchi, le cose, certo. Ma vai a fare in culo, va te, i forconi, ma certo, ma perché tu distingui tra scioperanti e scioperanti, quando c'erano i forconi, ti voglio fare risentire quello che dicevi, buffone. Emiliano, vai, buffo, ma quale diversità? Sì, certo, perché quelli là erano sporchi, brutti e cattivi. Ma vai, Emiliano, ma stai zitto, ma non mi fare pensare, non mi voglio nemmeno arrabbiare perché sei. Sì, è diverso, certo, è diverso dall'operaio della Thyssen, certo, il forcone è diverso perché è cattivo, sporco, perché non è dipendente, perché non è un operaio. È assolutamente sì. Guarda che alle volte i camionisti non hanno fatto gli auto. Sì, vabbè, non cercare giustificazioni. Quando si parlava di forconi, eri a spada tratta contro lo sciopero cosa. E contro i blocchi, i non sono un'altra cosa, sono, è gente che manifestava lo stesso. Emiliano, cosa. Ma stai zitto, vai, stai zitto, cosa. Che stai dicendo delle buffonate inaudite. Emiliano, ma dai. Pure ma no, stai zitto, nel senso figurato. Senso figurato, Emiliano, provincia di Lucca. Sì, no, ti volevo dire, Giuseppe, che naturalmente dispiace quando delle persone vengono messe a casa, quando ci sono delle situazioni di questo tipo, però sicuramente la prima responsabilità. E a cui va imputata la responsabilità, come diceva qualche ascoltatore prima, è dello vuoi cercare l'incidente con me, capito? Cioè, Emiliano, vai. Forza. È dello Stato in primis, perché costringe le aziende a chiudere, costringe le aziende a spostarsi. E per quello che riguarda invece il fatto effettivo, quindi la cronaca di questi giorni, se le forze dell'ordine si trovano davanti a delle persone che vogliono per forza di cose, con prepotenza, con il lancio di bottiglie, che è stato, l'abbiamo visto tutti, anche se se ne parla poco. E loro hanno il dovere e diritto di impedire l'accesso a certe zone, ma mettiamoci qualche volta dalla parte di quei poveri cristiani, giovani, meno giovani, che indossano la divisa. Cioè, ma dov'è il problema? Perché poi reagiscono con la forza. Vabbè, adesso reagire con la forza non è mai una cosa bella, perché bisognerebbe limitarla questa forza, e se qualcuno ha esagerato sicuramente verrà punito o cose di questo tipo. Dopodiché, ripeto, secondo me sono poche manganellate e semplici dinamiche di piazza. Dopodiché, non credo che ci sia un disegno, non credo che ci sia una roba ordita dall'alto, non credo che si volevano picchiare gli operai. Punto e basta. Se qualche poliziotto ha esagerato, dopodiché poi... Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Dai, quattro manganellate. Ma chi è Parenzo? Qualcuno ha scritto, io sono sempre dalla parte delle forze dell'ordine, non sono io, io sono sempre dalla parte delle forze dell'ordine, Landini doveva attenersi a quello che era stato concordato per il corteo. Ecco, questa seconda parte invece io la concordo. cioè la provo e sono d'accordo con quello, con questa frase. Cioè, quando c'è una manifestazione ci si deve attenere esattamente a quello che è il piano concordato, a quello che sono gli accordi. Se alcune persone vogliono andare da un'altra parte, ovviamente non è il caso di bastonarli, però possono nascere degli equivoci, delle cose da cui incidenti. È normale che sia così a Roma in una manifestazione. Detto questo, c'è un personaggio, domani è Halloween, c'è un personaggio che mi ha colpito, è un prete della parrocchia di San Michele Arcangelo, Borgo San Michele Latina, si chiama Don Leonardo Maria Pompei. Questo, pensa, è uno di quelli a migliaia e migliaia di visitatori online, eh? Halloween. Ecco, noi Halloween non lo festeggiamo, perché Halloween è la festa più importante del calendario satanico, è un'osanna al demonio, è una sera in cui avvengono delle cose terribili e atroci che preferisco non dire per radio. Cosa c'è sotto i giochetti? La innocenza di giochetti di tradizione di importazione anglofona, tipo trick or treat, si nasconde però il demonio in persona. Sotto i giochetti c'è il demonio. I guai più grandi vengono fatti alle 3 di notte dai satanisti, sempre, ma in questo giorno in particolare. Voi sapete che purtroppo il demonio scimmia, lo chiamavano i santi padri, scimmiotta l'agire di Dio. Siccome Gesù è morto alle 3 del pomeriggio, quindi quella è l'ora della misericordia, è l'ora di Gesù, lui ha scelto come ora sua quella delle 3 di notte. È per questo che la veglia deve protrarsi, perché bisogna rimanere svegli fino a quando questi imbecilli stanno svegli a combinare guai. Pieno di bambini che si divertono come matti la notte di Halloween, eh? Cioè, certo. Tua figlia fa Halloween, si traveste da zucca? Ma sicuro che sì, ma c'è domani sera, certo che sì. Non ha paura del diavolo? Non ha paura del diavolo? Diavolo, dolcetto scherzetto, andiamo a bussare. Domani sera vado a Siena e andrò a bussare con lei a tutte le porte per fare il gioco, giochetto scherzetto, ma stiamo scherzando. Sì, ma parla più vicino al microfono, sennò non si sente. Oh, sono tornati quelli di Radio Padania, pagati da noi, Pellegrin, eh? Sono rozzo e ignorante. Senti. Sai che i leghisti vengono sempre descritti come rozzi, ignoranti, incivili e anche subumani. Io mi ci ritrovo completamente. Rozzo, ignorante, incivile e subumano. Sono felice di esserlo. L'importante è non essere come Cruciani o come il bambino scemo. Porca miseria. Un ascoltatore di Radio Padania: se ci sono migranti è colpa di Confindustria, Vaticano, sindacati e Berlusconi. Vedo uno che picchia una donna dal di là della strada. Io dico, ma piantala, è partito, mi ha detto, sporco italiano, merdoso, vocabolo esatto, merdoso italiano. Cosa? Ma guarda che qui siamo in Italia, non contate niente, merdoso te, tutti merdosi gli italiani. È arrivato vicino alla laguna, ha cominciato a dargli dei calci e ha sputato. Fortunatamente non mi ha preso. Hey! Sono da prendere per il, a pedate nel culo, quelli che li hanno fatti venire qua, tipo Confindustria, tipo il Vaticano, tutta quella, i sindacati, il PD e tutta quella di compagnia, e anche Berlusconi, mettiamo insieme con le sue televisioni, che è andato nei paesi poveri a portare le televisioni e a fare vedere che qua c'erano i soldi che venivano sui soldi sugli alberi. Abbiamo con noi Don Leonardo Maria Pompei. Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. Senta, Don Leonardo, ma lei è davvero convinto che Halloween è la festa di Satana? Certamente, in quanto sacerdote cattolico, certamente sì. Cioè, che succede secondo lei di drammatico domani sera? Cioè, perché i bambini, io per esempio, mia figlia è tutta entusiasta, la zucca, i giochi, le streghe, cosa c'è che non va? Devo temere qualcosa? Glielo dico sul serio, non lo sto prendendo in giro. L'ascolto ascolto, deve temere qualcosa, perché questa festa è la festa più importante dei satanisti, è il capodanno di Satana, sì. E quindi è luogo e momento in cui si entra oggettivamente in contatto con il mondo dell'occulto e con ciò che questo opera. Ma anche per i bambini? Anche per i bambini. Cioè, cosa può succedere ai bambini, che ne so, a una certa ora? Cioè, può succedere qualcosa di concreto, oppure, vabbè, lei la considera una festa pagana? No, io rispondo con le parole di... Di chi? Di Don Benzi, conoscete sì. Tutti quanti Don Oreste Benzi. Sì, come no, certo. Allora, lui ha scritto e ha detto, insomma, a suo tempo, che Halloween promuove e sviluppa l'adesione al mondo satanico, e cioè ingabbia moltitudine di adolescenti, spesso nelle più grandi città. Sì. I segni nefasti di questo mondo oscuro che cattura i giovani portandoli a vestirsi di nero, ad ascoltare la musica satanica, sì. A frequentare locali, a tatuarsi simboli del male. Volete esortare i vostri figli dicendo: loro vuoi giocare e divertirsi con i demoni negli stili del male? Io suggerirei di esortarli a gioire, a fare festa con i santi, che sono gli amici simpatici e meravigliosi di Gesù. Magari, fanno tutte e due, però. Magari fanno tutte e due, magari c'è gente che va in chiesa e poi... Il diavolo? Come si dice nel proverbio, il diavolo e l'acqua santa non vanno molto d'accordo, o c'è l'uno o c'è l'altro. Ma secondo lei andrebbe proibita questa festa? Ma proibita questa è... non è... siamo in uno stato laico, no? Quindi è... Beh, sì. Alla coscienza... alla coscienza dei genitori e alla coscienza dei credenti fare le opportune valutazioni, no? Quindi non... Cioè, ma concretamente adesso non anche alle bambine noi, guardi, concretamente sono anni che tutti quanti i 31 di sera facciamo una bellissima festa mascherati da santi. Sì. Mi maschero anch'io, mi sono... Cioè, lei si maschera da santo? Domani sera mi maschero da San Michele Arcangelo, guarda, il vestito già pronto, insomma. Oh, vede che bello. E dove va? Ma anche lei fa una festa in maschera, allora? Certo, in salone parrocchiale, ma vestiti da santi, perché la gente non sa, no, che oggi è successo un fenomeno strano, cioè? Diciamo, nella nostra cultura italiana. Allora, voi sapete che il primo di novembre è la festa di ogni santi, no? Sì. Ma originariamente la festa di ogni santi non era nel primo novembre, perché quando nacque... Sì. Istituita in occasione della cosiddetta consacrazione del Pantheon da Gregorio IV, 840, si festeggiava il 13 maggio. Allora che è successo? Siccome erano molto forti ancora a causa della, come dire, delle invasioni barbariche. Sì, però riassumiamo dopo. Sì, facilissimo. I culti celtici da cui derivava Samhain, quindi il culto in contrapposizione. Esatto, nel 1048 praticamente la sua celebrazione fu spostata dal primo novembre proprio al fine di colonizzare il culto dei combattere. Adesso culto... è successo il fenomeno speculare. È tornato Halloween a scalzare la festa dei santi. Senta, ma il demonio, sì, cioè, secondo lei il demonio si può impadronire delle persone? Cioè, lei crede veramente a questa cosa del satanismo, cioè delle persone possedute dal demonio? Ah, certamente sì. Cioè, ne ha viste, ha concretamente qualche esempio di gente posseduta nella dal demonio? Nella mia esperienza di sacerdote ho avuto modo di poter vedere persone che soffrono di questo problema. Ma lei fa l'esorcista? Lei l'esorcista lo fa? Io ho visto fare esorcismi, ho assistito, perché non ho alcun mandato da parte della diocesi, ma ho visto. Quindi, e che succedeva a queste persone? Dipende, ogni caso è un caso a sé stante, c'è chi è molto violento, c'è chi parla altre lingue, c'è chi dice un sacco di bestemmie, c'è chi dice soltanto un sacco di parolacce, c'è chi molto tranquillamente... Ma non è semplicemente gente fuori di testa che non ha niente a che fare col fatto che sia entrato il demonio dentro queste persone? Questo è quello che pensano i razionalisti. Il problema è che ci sono alcuni segni che non danno tipo? da pensare questo. Se una persona con la quinta elementare, insomma, risponde a tono quando gli si parla in latino. Io ricordo quando ero da padre Amort tanti anni fa, accompagnando una persona, insomma, l'ho visto, l'ho sentito. C'è uno che va alla quinta elementare e rispondeva in latino. Certo. Vabbè, io il latino un pochino lo capisco. Ma non tutto è così. Lì c'è il demonio dentro. Ma secondo lei quante sono le persone in Italia che hanno il demonio ogni anno? Quante persone? Bisogna, più o meno. non so se dal paradiso abbiano gli sms, insomma, se rispondano al telefono, io non glielo so dire. Senta, io ho avuto caso, sono 10 anni che sono sacerdote, ho visto diverse persone, insomma, che poi con le opportune verifiche, perché chiaramente sono cose che vanno verificate, sono risultate avere problemi di origine satanica e demoniaca. Senta, però io questa cosa qua non mi voglio arrendere di fronte al fatto che Halloween venga considerata da lei da una festa da rifiutare, una festa da respingere, una festa dove c'è il demonio. Cioè, in che cosa si manifesta durante Halloween il demonio? Nei travestimenti? In che cosa? Cioè, c'è un rischio per i bambini di essere posseduti in quel momento? Guardi, penso che basti leggere i casi di cronaca, insomma. Cioè, che succede? La cronaca vuol dire? Strani omicidi rituali sono stati anche nella notte del 31. Vabbè, ma quello oppure profanazioni, oppure profanazioni di cimiteri, no? Penso che queste le si sanno, insomma, le cose che sono avvenute in giro, no? Tombe violate o cose di questo genere. Ma quello può succedere, Ma certamente si può sempre, come dire, dare l'interpretazione, come dire, casualistica, no? È un puro caso che questo sia avvenuto il 31. Io da vecchio studente di giurisprudenza ho imparato che più indizi fanno una prova, no? Quindi tutte coincidenze non possono essere. È ovvio che queste sono realtà di fede, quindi volendo le realtà di fede non possono essere dimostrate, quindi possono essere sento una cosa, ma secondo lei chi è gay, omosessuale? Oggi c'è stato questo grande coming out del capo di Apple, no? Il capo di Apple, Tim Cook, ha detto io sono omosessuale ed è stato un dono di Dio, cioè grazie. Addirittura. Sì, ha detto così, è stato un dono di Dio il fatto di essere stato, mi ha fatto questo grande regalo, cioè di essere omosessuale, cioè il grande capo di Apple. Lei ha capito? Pensi un po' che c'è tutto Apple dentro casa, guardi, sto parlando con lei. Che fa? Lo butta? Lo butta? No. Però buon uso. Però il capo di Apple, l'erede di Jobs, ha detto che ha fatto coming out, ha detto di essere omosessuale, ha detto anche che insomma per lui l'omosessualità è stato un grandissimo regalo di Dio. Questo anch'io l'ho trovato fortemente esagerato, devo dire la verità, un po' esagerato. Però secondo lei l'omosessualità che cos'è? C'è un po' di demonio? È un peccato contro il sesto comandamento, ma come in altri peccati contro il sesto comandamento, no? Qual è il sesto? Scusi, me lo ricordi? Io non sono commettere atti impuri. Non commettere atti impuri. Cioè, resta... L'omosessualità rientra nel peccato impuro contro natura, che però pochi sanno che il peccato impuro contro natura può essere compiuto anche nei rapporti eterosessuali. Ma è una malattia secondo lei? È semplicemente un peccato, insomma, quindi non è che sono è un peccato. No, d'accordo, è un peccato. A parte che c'è stata un'evoluzione, Papa Francesco non la pensa così, o no? Ma come Papa Francesco non la pensa così? Papa Francesco non può non pensarla altro che così, altrimenti, insomma, i papi non sono al di sopra della dottrina cattolica 2000 anni. Sembra però non pensarla in questo modo. Ha cambiato un po' di cose. Ha cambiato un po' di cose. Ha visto pure Berlusconi. Sta cambiando tutto, padre Pompei, don Pompei. Anche Berlusconi la Pasquale, ha visto, no? Ma Berlusconi non è il papa, no? Berlusconi certo. È un personaggio un po' particolare, insomma, che lo lasciamo. Come l'ha vista quell'immagine dei Luxuria, il papa? Ma guardi, c'è il Papa Berlusconi. Io penso che purtroppo? I politici sono sempre un po' tutti opportunisti, quindi grande opportunismo. Adesso, anche il Papa. Certo. No, il Papa. Voglio sperare di no. Cioè, no, non c'è nessuna. Comunque l'omosessualità è un peccato, ma c'entra qualcosa il demonio? Come in tutti i peccati, tutti quanti i peccati. Cioè, secondo lei gli omosessuali sono un po' come tutti coloro che trasgrediscono i 10 comandamenti. Vabbè, adesso però in particolare dentro un omosessuale c'è un po' di demonio, c'è un po' di diavolo. Come in ogni persona che commette un peccato mortale. Peccato mortale addirittura. Certo. Il sesto comandamento sono peccati. E dunque mortali. Che bisogna fare con gli omosessuali? Si devono convertire e devono praticare, come ogni persona che commette degli atti impuri, la continenza e la castità. Continenza e castità. Scusi un attimo, ma secondo lei si può guarire dall'omosessualità? Certamente, questo è pluriattestato sia in Italia che negli Stati Uniti. Cioè secondo lei si deve guarire? È preferibile, certamente. È preferibile. Cioè, se da lei si presenta un omosessuale e dice: guardi, io ho questa cosa qua, mi piacciono gli uomini, mi piace l'organo sessuale maschile. Adesso lei è un parroco, io non posso parlare come mio solito. Cioè, mi piace l'organo genitale maschile, il pisello. Che lei come risponde? Meglio evitare. No, ma lei come risponde? Io rispondo a caro figliolo, insomma, quindi. caro figliolo, se vuoi vivere cristianamente devi un attimo resettare i registi, ma né più né meno di come qualunque altra persona, perché nel cristianesimo, cioè, gli consiglia qualcosa, ma gli consiglia un corso, nel cristianesimo, anche se oggi se lo sono dimenticato. No, ma d'accordo, io voglio capire che gli consiglia lei, però un corso, una persona, uno psicologo, cosa? Non serve, serve fare un buon cammino di fede. Un buon cammino di fede. Bene, grazie, la ringrazio molto. Don Leonardo Maria Pompei, Franco da Prato. Buonasera a tutti. Dimmi. Sì, io chiamo a nome di un'associazione, che è quella delle Sentinelle Sedute. Ma non erano in piedi le Sentinelle? Sì, ma le nostre sono più gaudenti. Volevamo farle addirittura in ginocchio, ma ci sembrava. Ma dove? Che volete fare, Franco, le Sentinelle? Noi facciamo un flash mob. Ce lo racconti domani, Franco. Il flash mob delle Sentinelle Sedute a Prato. Perché cosa? Velocemente, ma riapertura delle case chiuse, dei bordelli. Le Sentinelle Sedute per la riapertura delle case chiuse. Forse è meglio delle Sentinelle in piedi, forse è meglio. Che dici, Parenzo? Forse è meglio. Questo sì, è già un passo in avanti. A domani, 18:30, ciao. Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe. Sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E vi devo dire che vi amo. Radio 24. La passione si sente.